È curioso e particolare perché credo che per gli spagnoli mezzogiorno sia un orario davvero impegnativo, cioè anche a livello di vita, loro sono proprio abituati a un orologio biologico diverso dal nostro, quindi... Ma loro giocano alle 12:12? 12:12, sì. 12:12 per loro in fondo è più l'ora dell'aperitivo che del pranzo rispetto a noi. Sì, eh. Quindi credo che non esista un ristorante aperto in Spagna. Esatto, quindi forse come danno alle buone famiglie, intendo dire, è inferiore al nostro, ma insomma... Beh, per quanto riguarda il pranzo, evidentemente sì, perché può, sì. Anzi, non escludo sia stata una scelta apposita, cioè di far giocare a mezzogiorno, considerando che comunque prima delle due uno neanche ci pensa al pranzo, perché poi comunque il pranzo in Spagna è molto più avanti, è oltre le due, verso le tre e quant'altro. E quindi forse è vero, è quasi considerato un dopo colazione.